Notte, le notizie in 60 minuti. 21, 2 minuti, 15 secondi in studio. Daniele Biacchiesi, questi i titoli delle principali notizie di oggi. Dopo voto delle amministrative, il PD tiene, avanzano le forze antisistema come Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia pur in calo conquista la Liguria, alle comunali numerose città vanno al ballottaggio il 14 giugno, Casson in testa a Venezia. Renzi dice avanti ancor più determinati e Salvini dice siamo noi l'alternativa. Non siamo qui per un motivo logistico ma per un ideale, così Matteo Renzi in Afghanistan nel discorso pronunciato davanti agli alpini. Il contingente di circa 500 soldati che dovrebbe concludere l'esperienza italiana in Afghanistan. Sulle pensioni stiamo esaminando la flessibilità in uscita, i diritti acquisiti tali restano, così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a Trento per il Festival dell'Economia. Aggiunge che i veri diritti acquisiti sono quelli basati sul contributivo, sottolineando però che questo non ha implicazioni sulla riflessione in corso. Sono stati catturati dalla polizia i due ragazzi ricercati per l'incidente avvenuto la scorsa settimana alla periferia di Roma, dove ha perso la vita una donna filippina, 8 persone rimaste ferite. I due hanno 17 e 19 anni, sono stati rintracciati questa mattina dalla squadra mobile. Inizierà il 5 novembre davanti alla 10ª sezione collegiale il processo per gli imputati Massimo Carminati e altre 33 persone della prima tornata dell'inchiesta cosiddetta su Mafia Capitale. Una bambina di un anno e mezzo morta a Vicenza dopo essere stata dimenticata dai genitori per 3 ore in automobile, chiusa in un parcheggio sotto il sole. Questa è Radio 24, una buona serata, gli sms 349-238-6666. In studio Daniele Biacchiesi per questa puntata di Effetto Notte del 1 giugno, in buona parte ovviamente dedicata alla politica, subito con il dopo voto amministrativo con il vice segretario del PD Deborah Serracchiani. Alla fine dunque è andata 5-2, il PD sembra tenere ma per alcuni risultati, penso a Umbria, Campania, immagini tra il vostro candidato vincitore e quello sconfitto, sono molto stretti. Intanto risultato positivo come sottolineava lei, 5-2, il che significa che dall'inizio della nostra segreteria e di questo governo ormai le regioni passate al centro-sinistra sono 10-2, naturalmente significa anche, lo rilevo, che il Partito Democratico continua ad essere anche ad esempio in Umbria che lei citava il primo partito con un consenso abbondante rispetto al secondo. Ci confermiamo primo partito in 6 regioni su 7, credo che questo sia un segnale positivo perché vuol dire che il partito di governo tiene, contrariamente a quello che sta accadendo ed è accaduto recentemente anche in altre regioni europee, penso alla Stiria e penso alla Spagna. Cosa è accaduto in Veneto e in Liguria? Candidati sbagliati? Ma io credo i nostri candidati, ricordiamoci, venivano dalle primarie, quindi sono state una scelta degli elettori del Partito Democratico e del centro-sinistra tutto, e credo che partissero anche da condizioni piuttosto complicate e difficili. Mi viene più semplice sicuramente ragionare su quello che è accaduto in Liguria, dove c'è una responsabilità nel campo del centro-sinistra evidente nella divisione tra la candidata Paita del Partito Democratico e Pastorino uscito dal Partito Democratico. Prevalgono le forze antisistema, Lega e Movimento 5 Stelle insieme sono quasi maggioranza nel paese. Sì, questo è un segnale che riscontriamo un po' ovunque anche in Europa. Prima accennavo ai risultati elettorali, l'antisistema è in qualche modo premiato perché oggettivamente c'è la necessità di consolidare e rafforzare dei numeri positivi in economia, che finalmente dopo 11 trimestri negativi sono positivi anche in Italia. Bisogna adesso impegnarsi perché la rabbia e la paura come viene va via. Quello che dobbiamo consolidare invece è il buon governo e la capacità di questo paese di tornare a crescere. A quel punto l'antisistema evidentemente non regge. Penso concorderà con me che non è stata una bella campagna elettorale. Per esempio il caso di De Luca, secondo lei è stata questione di sostanza oppure una sorta di regolamento di conti all'interno del partito? Guardi, non è stata una bella campagna, è stata una campagna elettorale aggressiva, cattiva, dove ahimè, e lo dico anche da Presidente di Regione, in molti casi si è parlato molto poco delle regioni, dei compiti, delle competenze delle regioni, delle loro nuove vocazioni. Cioè non si è parlato, non si è parlato di regioni. Proprio... Non si è parlato di regioni, e questo è il tema vero, insomma, no? L'impressione che ho avuto è che ahimè siamo stati chiamati a occuparci d'altro, insomma, e in alcuni casi questo altro era attinente a delle dinamiche anche molto complicate all'interno dei partiti, penso al mio e penso alla vicenda dell'antimafia. Quindi il caso De Luca è un regolamento di conti all'interno del PD? Guardi, non so se definirlo regolamento di conti, sicuramente non è stata una bella pagina per il Partito Democratico. In linea Pippo Civati, buonasera. Pippo Civati. Non sentiamo. Pronto, sente? Sì, sono qui. Ha sentito cosa diceva Deborah Serracchiani? No, purtroppo no, perché sono entrato ora in collegamento. Allora, ha parlato... Cose preziose. Ok, però, beh, insomma, comunque stiamo parlando del dopovoto. Civati, a Deborah Serracchiani io ho chiesto se il caso De Luca è un regolamento di conti all'interno del Partito Democratico. Ha detto che invece è solo una pagina orribile della politica italiana. Cioè, l'aver cambiato di Luca è una pagina, non dico orribile perché non sono così forte, però certamente molto discutibile della politica italiana, tanto che ora non sappiamo nemmeno se potrà fare il presidente della regione, per cui non so di che cosa parli Serracchiani, mi sembra che siano tutti molto nervosi, molto agitati, hanno perso metà dei voti, va capita questa sindrome del vincitore che non vince più. Però insomma, mi pare che Rosy Bindi abbia fatto un lavoro sulla base di criteri che tutto il Parlamento votò qualche mese fa, ci sono delle questioni aperte, si poteva rispondere anche senza essere d'accordo con toni più gentili, più rispettosi. Mi pare che De Luca comunque abbia vinto, quindi se il problema di Renzi era vincere a tutti i costi, qualsiasi costo in campagna, ce l'ha fatta. Peraltro segnalo che il PD non supera il 20% in campagna, che le liste che gli consentono di vincere sono proprio quelle degli impresentabili. Ecco, però lei è uscito dal Partito Democratico dopo un lungo travaglio. Il suo progetto di costruire qualcosa di alternativo a Renzi però non era rappresentato granché all'interno di queste regionali? Beh, certo, anche perché sono entrato quando le regionali erano sono uscito ed entrato in una nuova dimensione quando le regionali erano già partite. L'unico caso che può essere ascritto alla mia situazione è quello ligure, dove c'era Luca Pastorino, che è una persona molto vicina, a cui mi sento molto vicino personalmente, eticamente. Per il resto erano tutte partite che erano iniziate prima della mia decisione, che come sai è determinata dall'ultima provocazione, quella di discutere la legge elettorale in campagna elettorale mettendo la fiducia su un testo che non era condiviso da mezzo Parlamento. Quindi sono sentieri che si sono incrociati molto tardi dal punto di vista elettorale, soltanto 2 settimane fa, potremmo dire. Ma lei concorda con me che Lega e Movimento 5 Stelle rappresentano più o meno la maggioranza oggi? Insieme? Beh, se fossero insieme. Dopodiché, guardi, lì c'è anche da leggere un po' politicamente il dato, nel senso che paradossalmente Lega e 5 Stelle sono molto vicini sulle politiche europee, molto più vicini quanto non siano, per esempio, Salvini e una certa destra più moderata. Quindi questo apre già un problema politico sul futuro. È però vero che Salvini ha vinto le regionali, possiamo dirlo ai noi senza troppi fingimenti, e che i 5 Stelle comunque tengono, nonostante tutte la retorica per la quale avrebbero perso, sarebbero spariti, di fatto rappresentano una forza anche per gli obiettivi del partito di governo, una forza presente, viva e capace anche di fare dei risultati a 2 cifre. E lei cosa farà nei prossimi mesi? Io ho bisogno di fare un lavoro di ricostruzione, di ricomposizione di pezzi che si sono spezzati, frammentati, è un lavoro più di lungo periodo, non ha una soluzione immediata, però io penso che manchi qualcosa a sinistra. C'è questo gioco di parole fantastico di Stefano Barzellai, dice destra e manca, la sinistra italiana manca. E questo ci vede nel Partito Democratico, perché anche questi tonda vittoria comunque quando vota la metà dei cittadini, il PD perde metà dei propri voti, insomma dimostrano che c'è una cultura politica nella quale non solo io faccio riconoscermi ormai alla vita del Partito Democratico. Grazie Pippo Civati. Grazie a voi di cuore. 21, 12 minuti, 22 secondi, siete all'ascolto di Radio 24. La Lega conferma il Veneto e si propone come prima forza politica del centrodestra. Del Veneto non parlo perché il dato è talmente eclatante che non voglio infierire, ma eleggere consiglieri in Umbria e Marche, essere il secondo partito in Toscana, permettere a Forza Italia di vincere in Liguria, aver preso 40.000 voti in Puglia, significa che l'alternativa a Renzi c'è ed è la Lega. A dir poco soddisfatto, Matteo Salvini parla dalla sede di Via Bellerio a Milano e commenta i risultati che hanno consacrato la Lega come primo partito del centrodestra. Un centrodestra che si può ricostruire ma non con Alfano e con chi governa con l'attuale premier. Porta spalancata Forza Italia ma senza mezze misure, anche perché le cifre parlano chiaro, dice il leader del Carroccio. Berlusconi è uomo saggio e quindi i numeri li legge lui come li leggo io. Sarà Forza Italia a dover decidere cosa fare e con chi farlo, e saranno gli italiani alle primarie a decidere chi dovrà e soprattutto con quale programma sfidare Renzi. Andremo a vincere a livello nazionale, incalza Salvini, che cita due cavalli di battaglia del suo programma: l'eliminazione dei trattati europei e la riduzione delle tasse. Poi d'appuntamento a tutti il 21 giugno per il tradizionale raduno a Pontida. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grande aumento dei voti per il Movimento 5 Stelle un po' ovunque. Esulta Forza Italia per aver strappato la Liguria al PD. Un risultato a quello delle regionali che premia, seppure con le dovute differenze, il fronte delle opposizioni. Ad esultare allora il Movimento 5 Stelle, che si conferma seconda forza politica. Siamo primi in tre regioni, dice Grillo, che attacca quindi Renzi, non si governa con le bugie, e poi ancora Grillo, no ad alleanze, no ad inciuci. Così il capogruppo Businerolo. Grande risultato del Movimento 5 Stelle in tutte le sette regioni. Abbiamo messo all'interno dei consigli regionali persone oneste, incensurate, che faranno risparmiare i consigli regionali. Abbiamo lottato contro i dinosauri della politica, ma abbiamo vinto. Esposto in campagna intanto del Movimento 5 Stelle contro De Luca, deve essere sospeso subito, dicono i grillini. Contro Renzi anche Sinistra, Ecologia e Libertà in queste regionali prende un colpo durissimo, dice Vendola. Il fronte centrodestra, quindi Berlusconi, sottolinea la vittoria di Toti in Liguria, ma in Forza Italia non mancherebbero le preoccupazioni per il calo di voti e per la subalternità nei confronti della Lega. Per Brunetta, tuttavia, l'unico ad aver perso è Renzi. Renzi ha perso dove aveva i suoi renziani in prima fila, nel Veneto e in Liguria, e ha anche perso perché dove il PD ha vinto i candidati del PD non sono renziani. Infine, Fratelli d'Italia, il nostro risultato, dice la Meloni, dimostra che la linea della chiarezza paga e non quella del sostegno ai Volta Gabbana. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 21, 15 minuti e 15 secondi, ora al traffico. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Il dopo voto delle amministrative, il PD tiene, avanzano le forze antisistema come Lega e Movimento 5 Stelle. Forza Italia, pur in calo, conquista la Liguria. Alle comunali, numerose città al ballottaggio il 14 giugno. Casson in testa a Venezia e Sergio Mattarella. Le discussioni, dice, la dialettica anche acuta sono preziose, ma le liti esasperate creano sfiducia, contribuiscono a creare sfiducia, allontanano la partecipazione dei cittadini. Renzi dice avanti, ancor più determinati, Salvini, siamo noi l'alternativa. Non siamo qui per un motivo logistico ma per un ideale, così Matteo Renzi nel discorso pronunciato in Afghanistan davanti agli alpini, contingente di 500 soldati che dovrebbe concludere l'esperienza italiana in Afghanistan. Sulle pensioni stiamo esaminando la flessibilità in uscita, i diritti acquisiti tali restano, così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a Trento per il Festival dell'Economia. Catturati dalla polizia i due ragazzi ricercati per l'incidente avvenuto la scorsa settimana alla periferia di Roma, dove ha perso la vita una donna filippina, 8 persone rimaste ferite. Una bambina di 1 anno e mezzo morta a Vicenza dopo essere stata dimenticata dai genitori per 3 ore in automobile chiusa in un parcheggio sotto il sole. Benvenuta ad Alice Salvatore, candidata a presidente del Movimento 5 Stelle in Liguria. Buonasera. Buonasera, grazie. Cos'è accaduto in Liguria? Come mai una regione storicamente diciamo vicina alla sinistra, parliamo soprattutto del capoluogo Genova, ma non solo, che è passata non tanto grazie, devo dire, ai voti di Forza Italia, ma grazie soprattutto al fatto che il PD ha perduto molti voti. E voi ne avete presi moltissimi. Sì, e tra l'altro soprattutto a Genova. A Genova il Movimento 5 Stelle ha vinto, abbiamo preso il 29% e siamo arrivati primi anche rispetto a qualunque altra coalizione, qualunque altra forza politica proprio nel Comune di Genova. Invece sì, la situazione in tutta la regione è sorprendente questo voto per la Lega, ma è chiaro, è un sintomo della disillusione, il fatto che l'elettorato ormai non crede più assolutamente al Partito Democratico in questa nuova veste renziana, burlandiana che abbiamo vissuto purtroppo sulle nostre pelli qui in Liguria. E insomma, il fatto che dall'anno scorso alle europee la percentuale fosse del 41% e adesso è scesa al 27% è davvero indicativo del fatto che i cittadini non ne vogliono più sapere di ecco, mi scusi Salvatore, ma diciamo questo: pur prendendo moltissimi voti, però non riuscite a prendere regioni. Beh, allora, questa per noi è la prima volta che ci presentiamo nella regione Liguria, quindi abbiamo fatto un risultato storico, certo, sì. Però la politica entra col 25% per la prima volta in regione. Sì, però quello che voglio dire, non alleandovi, scegliendo, diciamo, legittimamente non allearvi, certo, di non il vostro 25-26%, diciamo, anche percentuali molto importanti, diciamo, non passano all'opposizione. Beh, però come vede adesso anche nelle amministrative le percentuali si stanno consolidando e quindi c'è in realtà una crescita, perché se fino all'altro ieri era più difficile per il Movimento 5 Stelle arrivare a percentuali così alte anche nelle amministrative, adesso invece la cosa sta diventando la regola e quindi noi puntiamo su una continua e progressiva crescita. Ci vuole del tempo, anche perché il nostro messaggio è un messaggio di consapevolezza, cioè i cittadini dovrebbero avvicinarsi, partecipare alla politica e interessarsi proprio del nostro programma, quindi arrivare a conoscerci ci vuole un po' di tempo, però il messaggio sta passando e infatti troviamo un elettorato che vota davvero con il cuore e questo onestamente non mi sembra di riscontrarlo negli altri partiti. Ha contato molto ciò che è accaduto in questi anni per quanto riguarda l'alluvione? Sicuramente è stato determinante appunto nel sancire questo distacco da parte della popolazione, della cittadinanza rispetto al Partito Democratico. E sì, io sono dispiaciuta che il Partito Democratico non sia arrivato terzo, se non altro perché almeno non avremmo un'indagata per omicidio colposo, disastro colposo in consiglio comunale e in consiglio regionale adesso, Raffaella Paita. E questo senz'altro ha contribuito, poi anche tutti i vari scandali delle spese pazze, ma soprattutto il vero problema è l'indifferenza totale da parte di questa amministrazione pubblica in questo periodo di colore appunto burlandiano, che però era la stessa nel periodo di centrodestra con Biasotti, cioè la giunta. Perché ce l'ha così tanto con Burlando? Burlando è il sintomo, cioè praticamente è il simbolo dell'indifferenza verso la cittadinanza. Si figuri, allora facciamo un esempio: dopo la grande alluvione del 2011, nel 2012 la giunta regionale ligure ha legiferato una nuova legge che permette tuttora di costruire in zona esondabile a distanza ravvicinata di soli 3 metri rispetto all'argine di un fiume, quando quella precedente permetteva di costruire a 10 metri. Quindi c'è un disastro, una calamità terribile a cui non si riesce a fare fronte e l'anno dopo danno il permesso di costruire ancora più a ridosso degli argini del fiume in zona esondabile. Questo è criminoso. Grazie Alice Salvatore, che ricordo è stata candidata a Presidente del Movimento 5 Stelle in Liguria, e siamo collegati con Roberto Dalimonte, docente, sistema politico italiano alla LUISS e collaboratore del Sole 24 Ore. Buonasera Dalimonte. Buonasera a voi. Lei che è una sorta di mago dei flussi elettorali, non so se le fa piacere questa... Ma no, mi sembra un po' eccessivo. Sì, diciamo di sì. Ha provato a vedere dove sono finiti per esempio i voti in uscita di alcuni partiti e in entrata per esempio della Lega, del Movimento 5 Stelle? No, non è ancora... È ancora presto. È ancora presto perché dobbiamo avere i dati per sezione e ci vuole ancora un po' di tempo per avere quei dati lì, per fare i flussi. Per bene bisogna avere appunto i dati. Non bastano. Ecco, però un'idea se l'è fatta, no? Credo cosa è venuta. Un'idea abbastanza precisa ce l'abbiamo sulla Lega, perché sappiamo già dal passato, cioè un trend storico per cui i voti della Lega e quelli di Forza Italia sono intercambiabili. Era così anche ai tempi in cui la Lega era guidata da Bossi. Buona parte dei voti in più che a Salvini vengono da Forza Italia, questo è un dato certo, anzi è il dato più sicuro che posso citare. 5 Stelle ha rubacchiato qua e là oppure è rimasto? Il 5 Stelle ha preso un po' da tutte le parti, trasversalmente. Ecco, del 5 Stelle si può dire una cosa importante, che non solo è il secondo partito del nostro sistema politico, ma è anche l'unico partito nazionale dopo il PD, perché si parla molto dell'avanzata di Salvini, ma intanto Salvini è il numero 3, il Movimento 5 Stelle è il numero 2, poi Salvini è un partito che soprattutto del centro-nord, del sud... Certo, non è radicato in tutto il paese, no? Certo. Mentre invece anche queste elezioni confermano e il partito di Grillo è radicato in tutto il paese, è un partito con un sostegno omogeneo, è un partito nazionale come PD. Il PD è giusto dire che ha tenuto? Sì, il PD sono elezioni amministrative, quindi fare i conti è sempre complicato, però sostanzialmente ha tenuto. A me risulta che aggregando tutti i voti ai vari candidati del PD di qua e di là, che il blocco di centrosinistra, che è esattamente il blocco PD, sia intorno al 38%. E quindi sostanzialmente ha tenuto. Ecco, però certo. Lega e Movimento 5 Stelle, se li dovessimo mettere insieme, forse sono la maggioranza del paese. Lega e Movimento 5 Stelle, la Lega non ancora. Cioè, non ancora. Ecco, no, perché vede, anche nel caso della Lega è difficile fare dei conteggi. La Lega nel Veneto ha preso il 17%, però la lista di Zaia è il 24%. Poi sono gli elettori leghisti dentro la lista di Zaia. Quindi quanto vale la Lega in Veneto? Certamente vale più del 17% che ha preso la lista della Lega, però quanto vale? Quindi si fanno male questi conteggi a livello di elezioni amministrative. Io la ringrazio, Roberto Dalimonte. Prego. In diretta su Radio 24, docente di sistema politico italiano alla LUISS e collaboratore del Sole 24 Ore. 21, 27 minuti e 25 secondi il meteo, poi riprendiamo il nostro racconto sulla giornata di oggi con le altre principali notizie. Notte, le notizie in 60 minuti. Il voto delle amministrative, il PD tiene, avanzano le forze antisistema come Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, pur in calo, conquista la Liguria. Alle comunali, numerose città vanno al ballottaggio il 14 di giugno. Casson in testa a Venezia. Le reazioni, Mattarella e il calo dell'affluenza, dice, liti allontanano i cittadini. Per Renzi è un risultato positivo, Salvini dice, noi siamo invece la vera alternativa. Non siamo qui per un motivo logistico, ma per un ideale, così Matteo Renzi nel discorso pronunciato davanti agli alpini in Afghanistan, il contingente di circa 500 soldati. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a Trento per il Festival dell'Economia annuncia sulle pensioni: stiamo esaminando la flessibilità in uscita e i diritti acquisiti, tali restano. Catturati dalla polizia i due ragazzi ricercati per l'incidente avvenuto la scorsa settimana alla periferia di Roma, dove aveva perso la vita una donna filippina, 8 persone rimaste ferite. Inizierà il 5 novembre davanti alla 10ª sessione collegiale processo per gli imputati carminati, 33 persone, della prima tornata dell'inchiesta su Mafia Capitale. Una bambina di un anno e mezzo morta a Vicenza dopo essere stata dimenticata dai genitori per 3 ore in automobile chiusa in un parcheggio sotto il sole. Dalle 21 vi abbiamo raccontato qui su Radio 24 per mezz'ora le analisi sulla situazione politica dopo le amministrative. Ora veniamo alle altre notizie del giorno. Dicevamo, Piercarlo Padoan a Trento sulle pensioni: stiamo esaminando la flessibilità in uscita, i diritti acquisiti tali restano. Padoan era a Trento per il Festival dell'Economia. L'idea è quella di favorire flessibilità in uscita verso la pensione anticipata, 62 anni non prima, con qualche rinuncia sull'importo dell'assegno. È la riforma previdenziale alla quale sta lavorando il governo che potrebbe favorire l'ingresso dei giovani. Naturalmente questo ha un costo per le finanze pubbliche che deve essere distribuito, quindi ci sono varie ipotesi, le stiamo studiando. Dichiara il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dal Festival dell'Economia di Trento. Continuano le pressioni di alcuni economisti e non solo affinché tutte le pensioni vengano ricalcolate col metodo contributivo. Padoan afferma: naturalmente i veri diritti acquisiti sono basati sul contributivo, ma questo non vuol dire niente. Vorrà non dir niente, ma la disparità di trattamento tra passato e futuro resta. Sul punto non sembra trattare neanche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, anche lui a Trento. Sul palco dice apertamente che la politica deve saper riconoscere i propri errori, ma sulle pensioni retributive preferisce non rispondere. E alle accuse sulle modeste assunzioni dopo la riforma del mercato del lavoro risponde: se tu fossi uno di quei 150.000 che ogni 3 mesi gli rinnovavano o non gli rinnovavano il cococò, il cocopro, la chiamata e il resto, te sapresti che differenza fa? Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. Abbiamo parlato di cronache, abbiamo detto della cattura dei due ragazzi ricercati per questo incidente avvenuto a Roma, dove aveva perso la vita una donna filippina, 8 persone rimaste ferite. Non abbiamo più lacrime da versare, reagiscono così le donne a Vocea, periferia di Roma, in attesa di giustizia, dove dal giorno in cui Corazon a bordo è stata travolta da un'auto pirata continuano a portare fiori e preghiere. A far cadere il silenzio la notizia del fermo di due nomadi, Samuele Alilovic, 19 anni, e suo fratello. La comunità filippina ora chiede giustizia. E finalmente è trovato e spero la giustizia uscire di questa povera Cora. Mi batte il mio cuore, proprio un dolore anche per gli italiani. Non hanno risposto alle domande dei magistrati i due giovani rom fermati questa mattina. Anthony, il più piccolo, appena 17enne, era alla guida dell'auto che ha investito 9 persone uccidendo la Golf filippina mercoledì sera. Rischiano l'accusa di omicidio volontario, mentre in carcere c'era già la moglie del minorenne, anche lei 17 anni, trattenuta con l'accusa di concorso in omicidio volontario. A portare la polizia nel campo nomadi, dove si erano nascosti, nella periferia est di Roma, le informazioni raccolte nei campi rom e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il caso però non è chiuso, dice Luigi Silpo, capo della squadra mobile di Roma. Stiamo verificando se a bordo dell'auto ci fosse una quarta persona. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 21:36 minuti e 17 secondi. A Parigi domani si tiene la riunione ministeriale ristretta a livello di ministri degli esteri dei 24 paesi partecipanti alla coalizione anti-ISIS. Avrà 2 obiettivi principali: una discussione sulla strategia della coalizione, mentre sul terreno la situazione è estremamente fragile, la riaffermazione della determinazione comune a fermare il terrorismo dello Stato islamico e l'adozione di dichiarazioni quanto più accentuate possibile in favore di una soluzione politica permanente della crisi irachena. I partecipanti affronteranno anche i temi delle minoranze perseguitate e della protezione del patrimonio in pericolo. Collegato con noi Alberto Negri. Buonasera a tutti voi. Cosa succederà domani a Parigi? Così importante questo incontro? È determinante? Non credo che lo sarà, però è il momento di fare il punto della situazione per poi probabilmente rivedere una strategia occidentale nei confronti del califfato. Soprattutto bisogna capire chi andrà. Intanto non ci sarà il segretario di Stato americano, John Kerry, dopo che si è rotto il femore per una caduta dalla bicicletta nella Savoia francese. Ci sarà invece il premier iracheno Haidar al-Abadi e una ventina di paesi che fanno parte della coalizione che fu messa in piedi l'anno scorso quando il califfato era avanzato fino dentro al Kurdistan iracheno. Riusciranno a trovare una chiave per contrastare l'ISIS, per contrastare lo Stato islamico? Non credo che sarà questa la situazione in cui verrà trovata una soluzione, anche perché partecipano molti al tavolo che hanno interessi troppo diversi e troppo contrastanti. In realtà la strategia contro il califfato finora è stata soltanto di contenimento ed è fallita pure quella, perché oggi tra Siria e Iraq il califfato controlla qualche cosa come 300.000 chilometri quadrati di territorio, cioè un territorio quasi grande, quasi come l'Italia. Insomma, ci troviamo davanti a una situazione ben più grande di quella che può essere in qualche modo risolta da una conferenza a Parigi in poche ore o con qualche dichiarazione. I temi delle minoranze perseguitate e della protezione del patrimonio sono essenziali? Ma direi di sì perché innanzitutto quando parliamo di minoranze parliamo di cristiani, parliamo di degli famosi yezidi iracheni che prima non conosceva nessuno, parliamo di minoranze etniche e di minoranze religiose che hanno costituito, come dire, il tessuto connettivo nella storia del Medio Oriente. Insomma, il Medio Oriente è nato il cristianesimo, è lì che è nato. Insomma, il fatto che decine e decine di migliaia di persone possano essere costretti da un ipotetico e futuro Stato islamico a dover abbandonare le proprie case, come già hanno fatto a milioni, beh, questo vuol dire uno stravolgimento completo. Stati che falliscono, come la Siria, come l'Iraq, e popolazioni in movimento che presto, prima o poi, busseranno anche alle nostre porte. Alberto, se dovessimo raccontare ai nostri ascoltatori a che punto è il cammino dell'ISIS verso l'obiettivo di, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista militare, dove è arrivato l'ISIS? Allora, se partiamo da nord è ormai a pochi chilometri dal confine con la Turchia, che tra l'altro è un paese membro della NATO. Quindi parliamo di un califfato che ormai si affaccia sul confine turco. A sud della Siria si è impadronito di Palmira, ma dopo Palmira ha occupato anche altri centri urbani ed è ormai presente anche sulla strada tra Homs e Damasco. Insomma, è già nelle vicinanze della capitale siriana, dove peraltro probabilmente avrà già infiltrato i suoi elementi ed era arrivato al campo profughi di Yarmouk. E in Iraq ha praticamente, con la cattura di Ramadi, ha conquistato la più grande città, 500.000 abitanti, capoluogo della provincia di Al-Anbar, a grande maggioranza sunnita, ma si sta muovendo per occupare altre basi militari. Oltretutto qui c'è un aspetto anche paradossale. L'ISIS si è impadronito di 2.200 blindati Humvee americani di cui era dotato l'esercito iracheno. Oggi proprio questi blindati vengono usati per gli attentati suicidi. Molto preoccupato? Beh, direi di sì. E di sì perché la preoccupazione è già nelle cifre. La Siria ha 4-5 milioni di profughi all'estero, forse 7-8 milioni di persone hanno dovuto abbandonare tra dentro e fuori le loro case, decine, centinaia di migliaia anche in Iraq. Insomma, ci troviamo davanti davvero a esodi di proporzioni bibliche e a problemi geopolitici veramente travolgenti e che in qualche modo prima o poi, come dicevo prima, busseranno pesantemente anche alle nostre porte. Alberto Negri, inviato speciale, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti voi. 21:41 minuti e 52 secondi, chiudiamo questo questa puntata di Effetto Notte. E il calcio, con la Juventus che oggi, con un incontro aperto alla stampa mondiale, ha iniziato a Torino il cammino verso la finale di Champions League. La lunga marcia verso Berlino è ufficialmente cominciata. Destinazione Olympiastadion, sabato sera, ore 20:45. Tra la Juventus e il sogno del triplete, il Barcellona stellare di Lionel Messi, Neymar, Suarez e compagnia bella, a sua volta caccia della tripletta stagionale dopo le vittorie in campionato e Coppa del Re. Catalani favoriti, e allora per aumentare ottimismo e autostima ci si attacca pure alla Cabala, che regala ai bianconeri la stessa panchina occupata da Marcello Lippi e da gli azzurri nella finale dei mondiali 2006 vinta ai rigori contro la Francia. Allegri fa gli scongiuri e pensa piuttosto a come fermare i blaugrana. Bisogna fare una partita anche di coraggio, sapere che ci saranno momenti di difficoltà e ci saranno momenti favorevoli a noi, perché ci saranno. Non è che andiamo a Berlino aspettando che loro ci facciano un gol o che facciamo la vittima sacrificale. Intanto la platea mondiale si prepara ad accomodarsi sul divano. Saranno 1800 le TV collegate da 200 paesi, 400 milioni gli spettatori previsti per il duello che vale la Champions. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buonasera a tutti, dunque da Daniele Biacchesi, alle 21:43 minuti e 23 secondi vi abbiamo raccontato, soprattutto nella prima parte, la politica, i risultati delle amministrative che danno la tenuta del PD, mentre avanzano Lega e Movimento 5 Stelle e Forza Italia conquista la Liguria. È in corso ancora lo spoglio comunale, numerose città vanno al ballottaggio il 14 giugno con Casson in testa a Venezia. Vi abbiamo raccontato di ciò che è accaduto al Festival dell'Economia di Trento, della cattura di questi due ragazzi ricercati per l'incidente alla periferia di Roma. Vi abbiamo raccontato naturalmente di ciò che accadrà domani a Parigi, la riunione ministeriale ristretta della coalizione anti-ISIS. Vi saluta qui Daniele Biacchese.